Mi sembra che ora che non funziona il tuo volto cucito sopra un'altra persona. Mi hai detto che mi avresti messo alla prova. Io ho sbagliato, già mi sembra qualcosa. Leggo negli occhi il disprezzo, ma quando mi baci li chiudi e poi mi riduci in un buon compromesso. Consumi persone, le usi e dopo le curi mi lasci perplesso. Si è tutto già perso, un po' troppo presto. Lo sai, c'è scommesso che sparirai, e lo ricordo come fosse ieri. E sai, poi ti ricordo come forse eri, come aforismi sprecati sui muri. Ma adesso togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso. Carne viva, crudite, scelte stupide, cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide, stupide. Sempre svogliata, bella e spietata, in mezzo al tuo petto una porta blindata. Sempre diversa, mi sembri persa, solo non vuoi essere ritrovata. E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio, perché il tuo sguardo mi mette a disagio. Mi hai fatto male come ho fatto io, forse dovrei denunciarti per plagio. Tu sei per me l'errore, passi da me, succede. Succede solo il venerdì, che non mi baci più così. E fa male, come aforismi sprecati sui muri. Ma adesso togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso. Carne viva, crudite, scelte stupide, cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide, stupide. Non si scioglieranno mai i miei occhi di ghiaccio, e non li scioglierai nemmeno te. Ma che male c'è, soltanto una notte in hotel. Ma adesso togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso. Carne viva, crudite, scelte stupide, cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide.